Io credo che sulla questione Alitalia si dovrebbe aprire una procedura di impeachment sul Presidente del Consiglio, perché egli ha letteralmente truffato il mercato quando prima delle elezioni ha fatto capire che aveva già la soluzione in mano e gli acquirenti in mano. Invece non aveva un bel niente, ha chiesto e preteso che venissero stanziate 300 milioni di euro come prestito ponte, adesso lo trasforma come capitale sociale. Addirittura dà l'incarico di valutare chi deve essere l'acquirente ad una banca che è la maggiore esposta rispetto all'indebitamento che ha l'Italia. A me pare che tutto questo sia di una gravità politica, morale, istituzionale incredibile, per lasciare che le cose possano fare il loro corso senza provocare la messa in mora e dell'Unione Europea, ma anche dei magistrati contabili e non solo.